passare questo tempo insieme, questi sforzi, ascoltare discorsi che non sono così evidenti da capire, cercare di rifletterci sopra, cioè, serve per fare in modo che la nostra mente diventa una fonte di felicità per noi stessi e per gli altri, okay? Quindi cerchiamo di prendere in considerazione gli altri esseri, noi siamo gli esseri senzienti, ordinari, ok? Quindi il nostro unico desiderio è quello di incontrare la felicità, il benessere, la soddisfazione, però vediamo che invece quello che possiamo sperimentare sono solo difficoltà, insoddisfazione, sofferenze giorno dopo giorno, ok? Esattamente come noi abbiamo questo desiderio e facciamo queste esperienze, esattamente tutti gli altri esseri hanno queste stesse esperienze, questi stessi desideri. Okay? Quindi cerchiamo di includerle nella nostra determinazione, del nostro scopo di azione, fare in modo che il nostro tempo qui non sia solo di beneficio a noi, ma sia anche di beneficio agli altri tramite la nostra comprensione, il nostro atteggiamento, eccetera. Quindi questa motivazione si chiama la mente di bodhicitta, quindi è nell'entità di questo pensiero non posso io ottenere lo stato di Buddha per beneficio di tutti gli esseri senzienti. Bene, altrimenti quindi noi siamo alla pagina 54, okay, nel testo. Quindi siamo sì, a metà strada nel ciò che riguarda le contemplazioni o le istruzioni dell'essere che è di motivazione intermedio. Quindi abbiamo visto, abbiamo sì, tre tipi di esseri che possono avvicinare un sentiero spirituale, quelli che ricercano la felicità in una vita futura, quelli che ricercano la pacificazione completa della sofferenza e quelli che ricercano l'ottenimento dello stato di Buddha motivato dalla grande compassione. Questo è il testo, sono le preghiere introduttive. I testi, mi sa che non ce ne abbiamo abbastanza, dovete condividerli. Ok, quindi questa persona che ricerca quindi la pacificazione completa della sofferenza è una persona che ha un certo tipo di comprensione, quindi non è soltanto attratto dalle perfezioni, non è attratto, infatti non è attratto da ciò che l'esistenza offrire, ciò che è di bello è che l'esistenza offrire, no? Perché la sua ha una mente molto penetrante, quindi ha questa comprensione nella natura dei fenomeni, delle esperienze, delle varie situazioni. E questa persona ha realizzato che tutto è nella natura dell'insoddisfazione, tutto nella natura della sofferenza, no? Quindi realizza anche ha realizzato che il proprio corpo e la propria mente hanno una natura imperfetta, hanno delle caratteristiche disfunzionanti, e queste caratteristiche disfunzionanti del corpo, della mente, è ciò che principalmente produce tutta la sofferenza di senso dell'esistenza, no? E quindi questa persona desidera pacificare la mente, perché nel buddismo la mente è la fonte della felicità o della sofferenza, è la fonte principale di sofferenza e di felicità, no? Possiamo vedere, noi di solito quando vogliamo sperimentare il benessere, come cerchiamo di sperimentare il benessere o la felicità, no? La stessa cosa. Ci appoggiamo su fenomeni esterni, okay? Sui amici, sui compagni, su viaggi, cinema, musica, tutti questi, il cibo, okay? La spiaggia, il mare, l'inverno andiamo a sciare, tutti questi supporti sono sulle quali noi esseri ordinari ricerchiamo la felicità. Okay? Però quindi questo anche sì un'esperienza piacevole, può sorgere da queste varie esperienze, non c'è nessuna garanzia. E comunque non dura, non dura. E poi l'abbiamo visto che questo essendo, diciamo, una felicità contaminata, e questi supporti non essendo dei veri supporti di felicità, più le utilizziamo, più invece la felicità diminuisce e viene rimpiazzata da un'esperienza spiacevole. L'abbiamo visto, no? Si chiama la sofferenza del cambiamento, ok? Infatti, per noi essere per noi l'esperienza di felicità esiste soltanto perché un momento primo c'è uno sconforto, no? C'è un disagio, c'è un'insoddisfazione. E allora il buttarsi in una nuova attività o cambiare di ambiente o comunque inserire, cioè incominciare un movimento, fa in modo, e l'incontro con questo nuovo supporto fa in modo che la sofferenza precedente, lo stato di disagio precedente diminuisce dovuto a questo nuovo contatto e la nostra mente percepisce questo nuovo contatto come essendo un oggetto che porta alla felicità. Invece è soltanto un sollievo, ok? Qui abbiamo visto, cioè abbiamo parlato di questo in modo abbastanza esteso, già non voglio ritornarci su, ok? Noi quindi ricerchiamo la felicità su supporti esterni, okay? Quindi la felicità può essere sperimentata tramite una sensazione che vengono chiamate corporee, cioè sono le sensazioni che esistono nel seguito delle coscienze sensoriali, okay? Quindi abbiamo coscienza visiva, olfattiva, tattile, gustativa, eccetera. E quindi basandosi su questi vari incontri, quando l'oggetto viene percepito come piacevole, c'è una sensazione piacevole, ok? E quando l'oggetto, il contatto viene discriminato come spiacevole, c'è un'esperienza spiacevole che sorge. Quindi, però abbiamo anche, al di là di queste sensazioni corporee o che si basano su le coscienze sensoriali, la mente, la coscienza mentale ha la sua propria capacità di produrre sensazione piacevole e spiacevole. Nel senso, indipendentemente da ciò che ci circonda, che sia una situazione favorevole o sfavorevole, la mente ritiene comunque la sua capacità, la coscienza mentale o la mente concettuale ritiene la sua capacità in astrazione dell'ambiente, dell'esperienza, di generare sofferenza e felicità. Okay? Vi faccio un esempio, anche se possiamo essere diciamo, in un quadro abbastanza fortunato, diciamo che abbiamo un appartamento, abbiamo il lavoro, abbiamo il compagno, tutto quello che diciamo, la società o l'educazione ci ha. Tutto quello che all'interno della nostra società costituisce una situazione di felicità, una situazione, diciamo, benestante o favorevole, ok? Nonostante quando ci svegliamo la mattina è possibile che la mente, e questo capita a tutti, che la mente non sta bene, ok? Che anche se l'appartamento è sempre lo stesso, la mente la mattina c'è un fastidio, no? C'è un certo fastidio, c'è qualcosa che non va. La persona si sente incompleta, anche se ha ottenuto queste varie situazioni positive, okay? E invece quindi vediamo in questo contesto che anche se i supporti sensoriali sono presenti e sono in generale considerati come piacevole, la mente ritiene la sua capacità in un modo indipendente, quindi di produrre la sofferenza, ok? E vediamo anche che invece ci sono altre persone che non hanno forse la situazione favorevole che abbiamo, o hanno problemi di salute, o hanno difficoltà nella vita, molto di più di noi, e invece ritengono una mente positiva, sono abbastanza sereni, attraversano le situazioni senza cioè, essere troppo agitato. Quindi vediamo che anche qui in questo contesto, anche se le esperienze esterne, le condizioni esterne non sono così positive, la mente ritiene comunque indipendentemente la sua capacità di produrre il benessere. Okay? Quindi di queste due, delle sensazioni che sorgono dalle coscienze sensoriali o dal contatto con i vari oggetti dei sensi, è la sensazione che esiste all'interno della mente concettuale, questa seconda predomina. Okay? Nel senso che ha la capacità, la sensazione che produce la mente concettuale, ha la capacità di far astrazione delle sensazioni, delle situazioni piacevole o spiacevole. Quindi questo mostra, essendo nel buddismo comunque è la cosa molto chiara, che la propria capacità, che la felicità o la sofferenza non dipende di come la mente, di ciò che ci circonda, no? Delle situazioni, delle persone, dei contatti che abbiamo, delle situazioni nelle quali ci buttiamo, ma da come la mente interagisce, interagisce con queste situazioni, con queste persone, come la propria mente vive o concettualizza la situazione. Quindi quando un'esperienza è positiva, la mente anche può essere insoddisfatta rispetto a questa esperienza. E quando invece c'è un'esperienza di difficoltà o una situazione difficile, la mente può invece mantenersi la sua capacità, il suo modo di pensare gli permette di mantenere il benessere. Okay? Quindi questa persona, l'essere di motivazione intermedio, ha percepito molto chiaramente che la mente nello stato attuale è impossibile ottenere la felicità, perché noi non vogliamo semplicemente una felicità di pochi minuti, di poche ore, che dipende da queste varie situazioni, artifici che sono intorno a noi. No, ciò che ispiriamo all'interno di noi è una felicità duratura. Qualcosa che dura, che è permanente, okay? E che non fluttua. Okay? Quindi questa persona vede che nello stato attuale della propria mente, con l'ignoranza che abbiamo, questo fraintendimento della realtà, del modo di essere, e tutte le afflizioni mentali che vengono scatenate da questa distorsione della realtà, no? Come la brama, come l'avversione, come l'orgoglio, la belligeranza, il risentimento. Okay? È impossibile che la mente sperimenta la felicità, la vera felicità. Okay? Quindi questi cinque aggregati, che sono i costituenti fisico-psichiche, psichiche, si dice così? Psichici, scusate, che costituiscono la persona, okay? Sono per questa persona paragonati a una ferita che non cicatrice mai e che uno sta sempre cercando di proteggere, ma che va a sbattere di qua e di là. Okay? Per esempio, no? Anche se abbiamo fatto questo esempio l'altra volta, no? Anche se siamo sereni, arriviamo al lavoro abbastanza sereno, okay? Per miracolo ci siamo lì alzati col piede giusto, okay? E arriviamo al lavoro e non so, sentiamo qualcosa di spiacevole o c'è una critica o qualcosa, anche certe volte anche una persona non ha neanche l'intenzione di colpirci, semplicemente una riflessione così, no? Ah, ma ti sei alzato, ha una faccia strana, cioè qualcosa. E questa parola, no? Questa parola ha la capacità di disturbare il proprio continuo mentale per giorni, per settimane, ok? All'origine che cos'è? È semplicemente una vibrazione dell'aria, non ha niente come potere intrinseco, è semplicemente il valore che abbiamo dato a questa situazione, no? Quello che abbiamo soprimposto su questa interazione che crea la sofferenza. Okay? Quindi, nello stesso modo, anche se abbiamo delle difficoltà con qualcuno, anche se questa persona non ha neanche il bisogno di essere presente, semplicemente il pensare a una persona con la quale abbiamo delle difficoltà, non possiamo neanche dormire, siamo agitati, no? Cioè, è capitato a tutti, no? Di avere una persona che ci dà molto fastidio, che cerca anche eventualmente di farci del danno, anche quando questa persona non è davanti a noi, il semplicemente pensare a questo essere disturba la continuità mentale. Stessa cosa per l'attaccamento. L'attaccamento quando sorge, anche se si mostra come il proprio amico, perché è concomitante con una sensazione piacevole, il non ottenere soddisfazione è una grande fonte di sofferenza, dei sentimenti non condivisi è una grande fonte di sofferenza, okay? O semplicemente dovuto al fatto che tutto a un certo punto si finisce, okay? Con una relazione, la fine di una relazione è sempre una grande sofferenza. Abbiamo visto, no, che l'attaccamento è ciò che produce la più grande intensità di sofferenza, invece. Quindi questa persona, questo ben chiaro, ok, vuole uscire di questo modo di esistenza, vuole uscire di questo modo di esistenza, quello che viene chiamato disdanta ciclica, e quindi il prendere la rinascita spinti dal karma e dell'afflizione, no? Queste afflizioni ci fanno creare le azioni e le azioni ci fanno sperimentare i risultati. E quindi lui ricerca il nirvana. Il nirvana non è un posto, è la cessazione di questa attività mentale non controllata, di questa distorsione mentale. Okay? Questo è il nirvana, quindi è la pacificazione completa, della sofferenza, sì, della distorsione mentale, dell'ignoranza. E abbiamo visto che per ottenere questo scopo, la pratica principale sono la contemplazione sulle quattro nobili verità. Questo è il cuore, okay, della sua pratica, e sono anche è il fondamento, anche tutti gli insegnamenti del Buddha e anche delle istruzioni o pratiche che vengono anche dopo sovraimposte a questa comprensione. Quindi la prima nobile verità è quella della sofferenza, che abbiamo descritto in un modo molto breve, okay? Quindi la sofferenza va realizzato, prima bisogna capire la sofferenza, che cos'è, qual è il nostro stato, e dopo ci interessiamo se c'è un'origine a questa sofferenza, qual è l'origine, da che cosa sorgono tutte queste distorsioni mentali, tutta questa sofferenza, questo stress, questa ansietà, questa mente turbolenta, dove sorge, c'è una causa, un'origine. E abbiamo incominciato a identificare l'origine di questo, ok? E dopo questa persona, vedendo che c'è un'origine, c'è una causa alla sofferenza, allora ci può essere anche una cessazione di questa sofferenza, ok? Visto che sì, le origini vengono eliminate, o il risultato non può più sorgere. E questo descrive anche il sentiero. Allora, in termini dell'origine della sofferenza abbiamo identificato le sei afflizioni radice, okay? Le sei afflizioni radice, o le 10 afflizioni radice, se andiamo a suddividere l'ultima, che sono le visioni, in 5, okay? Quindi abbiamo 5 visioni e 5 non visioni. Allora, abbiamo fatto la settimana scorsa, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'attaccamento, abbiamo fatto l'odio, abbiamo fatto l'orgoglio, l'ignoranza, siamo fermati all'orgoglio, giusto? Ok? L'orgoglio, quindi dobbiamo fare il resto. Rispetto a quello che abbiamo coperto insieme, ci sono delle domande? Ok, bene, allora le faccio io. Che cos'è, a chi è che mi descrive brevemente cos'è l'attaccamento? Una delle persone che era qui la settimana scorsa risponde. Cos'è l'attaccamento? Abbiamo detto, no, che sì, non siamo in grado di, se non conosciamo l'entità di queste cose, diventano impossibile identificare e quindi a agire contro queste afflizioni mentali. Quindi l'attaccamento, chi è che me lo definisce brevemente, così? No? Distorsione dell'oggetto, cioè, tutte le afflizioni comunque sono distorsione della realtà. Allora, nel caso dell'attaccamento è un aumento degli attributi piacevoli. Quindi l'attaccamento come si manifesta? No? Si manifesta, non vuole, cioè ricerca il contatto e non vuole essere separato. Ok? Non vuole essere separato. Ok. Quindi, come sorge l'attaccamento? Come sorge? Vi ricordate come sorge? Come? Brahma, attaccamento è la stessa cosa. Ok, c'è delle cose un po' nel disordine. Allora, come prima cosa, come base a tutte le afflizioni, dobbiamo avere il fraintendimento della realtà. Ok? l'ignoranza, ok? L'ignoranza fondamentale che si afferra all'esistenza intrinseca o all'esistere del lato del proprio oggetto. Quindi, come abbiamo visto, come ci appaiono i fenomeni? I fenomeni come il tavolo, i bicchieri, le persone, il microfono, eccetera, ci appaiono come avendo un'esistenza obiettiva, ok? Un'esistenza del lato del fenomeno, nel senso che il fenomeno appare esistere, il tavolo appare esistere del suo proprio lato, indipendentemente dalla mia mente. Nel senso che il modo di apparire del tavolo è che per esistere non c'è bisogno della mia mente. C'è bisogno. Non soltanto esiste quindi del suo proprio lato, questa è l'apparenza che abbiamo, ma anche degli attributi, delle caratteristiche che gli sono intrinseche. Questo tavolo possiede delle caratteristiche intrinseche, ok? Di bruttezza, di bellezza, cioè di essere utile, non utile, tutte queste cose sembrano sorgere dal lato del fenomeno, ok? Quindi questa è la base, se non c'è questa ignoranza fondamentale, le afflizioni non possono sorgere, ok? Quindi se non c'è questo modo di apparire e questo modo di accogliere l'apparenza, perché accogliamo questa apparenza, quindi l'ignoranza non è l'apparenza, è il credere in questa apparenza. Okay? L'afflizione non può sorgere. Dopo, una volta quindi che abbiamo percepito l'oggetto o la persona, è che è dovuto no alle nostre predisposizioni, okay? Alle nostre predisposizioni, il karma, okay? Tale oggetto appare attraente, cosa succede a quel momento? Fino a quel livello non c'è l'afflizione ancora, l'afflizione non è sorta ancora, ma tra l'afflizione e l'ignoranza c'è un altro processo. Qual è questo processo? Ricordate? L'attenzione mentale inappropriata. Okay? Abbiamo questa mente concettuale che si impegna nelle caratteristiche del fenomeno, si impegna negli attributi piacevole e dimora, ci pensa, okay? Dimora. In questi attributi, e così, cosa, eccetera. E questo come risultato, quindi, di far sorgere l'attaccamento, e l'attaccamento è proprio la distorsione che è arrivata al suo massimo, questa distorsione, dove tutto ciò che è piacevole viene aumentato, okay? E tutto ciò che è spiacevole viene completamente occultato. Quindi ciò che appare alla mente dell'attaccamento, perché l'attaccamento è un tipo di mente, conosce il suo oggetto, lo conosce in un modo distorto, però lo conosce, l'attaccamento quindi è una mente, è una distorsione della realtà, okay? E l'attaccamento, abbiamo visto, può essere così portato avanti che anche dei difetti possono apparire come delle qualità alla persona che ha quel tipo di... quando si lascia crescere, quando si lascia crescere. Ok, e questa mente quindi ricerca l'oggetto e non vuole sperimentare la separazione. Questo è l'attaccamento. L'aversione è lo stesso, è l'opposto. L'aversione è l'opposto. C'è anche questo fraintendimento della realtà. Questa volta invece sono caratteristiche spiacevole che appaiono. Abbiamo dopo questa distorsione dell'avversione. E l'avversione desidera essere allontanato, non soltanto essere allontanato, separato dall'oggetto, ma anche il desiderio di danneggiare la fonte della sofferenza e la sofferenza stessa. Okay? Qui abbiamo fatto attaccamento, avversione e l'orgoglio. L'orgoglio abbiamo visto, abbiamo sette tipi di orgoglio. Non sono indicati, l'abbiamo visto quando abbiamo aperto la versione estesa. Abbiamo sette tipi di orgoglio, una mente che si gonfia, okay? Si gonfia all'osservazione degli attributi, di vari attributi della persona, no? Cioè il lineaggio, la famiglia, l'educazione, l'età, l'intelligenza, la cultura, cioè i possedimenti. Quindi osserva ciò che è l'io, ciò che è in relazione all'io, e si gonfia. Okay? E adesso siamo all'ignoranza, ok? Quindi se prendiamo il testo, dobbiamo essere a pagina 54. 4, e dov'è questa ignoranza? Afflizione che disturba la mente, l'attaccamento, l'odio, l'orgoglio, l'ignoranza. Vai, grazie. Proprio come, anche se dentro una casa senza finestre ci sono molte cose di colori e forme differenti, per il potere dell'oscurità non si sa se sono bianche o nere, eccellenti o difettose. Similmente l'afflizione che oscura, ovvero non rende chiaro l'intero modo di sussistere delle varietà e dei modi, come le azioni e i loro risultati, le quattro verità e così via, è l'ignoranza. L'afflizione che ostacola la generazione dell'accertamento rispetto agli oggetti tramite il pensare, le spiegazioni nelle scritture riguardanti i tre gioielli e così via sono vere o no, è il dubbio. Ok, grazie, fermiamoci qui. Ok, quindi l'ignoranza, come viene presentato qui, è una specie di oscurazione, no? Allora, possiamo distinguere vari tipi di ignoranza. Abbiamo un'ignoranza che è rispetto al convenzionale e un'ignoranza rispetto all'ultimo. Ok? Quindi l'ultimo è il modo di esistere dei fenomeni, il modo di esistere della persona, della mente, di tutti i vari fenomeni. Quindi quando l'oscurazione o l'ignoranza riguarda il modo di esistere, il modo di dimorare o di sussistere dei fenomeni, un'ignoranza rispetto all'ultimo, e invece l'altro tipo di ignoranza è un'ignoranza rispetto al convenzionale. Okay? Per esempio, abbiamo un'ignoranza rispetto alla legge di causa effetto, abbiamo un'ignoranza rispetto alle quattro nobili verità, come viene menzionato qui, abbiamo un'ignoranza rispetto cioè sì, ok, fermiamoci qui per adesso, basta. Ok, quindi abbiamo due tipi di ignoranza. Allora, il tipo di ignoranza che ci fa prendere rinascita all'interno dell'esistenza ciclica, ok, è questo fraintendimento della realtà. È l'ignoranza, il tipo di ignoranza che ci fa sperimentare le condizioni spiacevole all'interno dell'esistenza ciclica è un'ignoranza rispetto alle leggi di causa effetto. Ok? Quindi possiamo anche metterla così, l'ignoranza che il tipo di ignoranza che ci fa sperimentare le situazioni piacevole, okay, è l'ignoranza rispetto all'ultimo, il modo di esistere, e l'ignoranza che ci fa sperimentare l'esperienza di sofferenza è un'ignoranza rispetto al convenzionale. Okay? In entrambi i casi è l'ignoranza che è il fraintendimento della realtà o il concepire un'esistenza intrinseca dei fenomeni della persona che è alla radice dell'esistenza ciclica. Okay? Quindi è un'oscurazione, okay? È un'oscurazione che non ci fa capire come esistono le cose. Okay? Fermiamoci qui. E dopo abbiamo il dubbio. Il dubbio in questo contesto è un dubbio particolare, è il dubbio afflitto, non è semplicemente il dubbio nel senso sia ho fame o non ho fame, non sono sicuro, non è quel tipo di dubbio, è un dubbio rispetto è un dubbio che fa ostacolo alla pratica della virtù, nel senso è un dubbio rispetto alla validità dell'insegnamento, un dubbio rispetto alla validità delle quattro nobili verità, ok? E questo dubbio ha come funzione di bloccare l'impegno in attività virtuoso o quel tipo di cose, no? Vediamoci qui. Ok, qui, meditazione sulla vacuità, no? Legge. L'ignoranza è una mancanza di conoscenza che implica un'oscurazione riguardo al modo di esistenza dei fenomeni e funge di base per il nascere di false percezioni, dubbi e afflizione. Il suo principale antidoto è la saggezza che comprende l'assenza di un sé. L'ignoranza di due tipi, oscurazione rispetto alle azioni e ai loro effetti, e un'oscurazione rispetto al modo reale d'esistenza. Okay? Quell'ultima, che è quindi quella, l'ignoranza rispetto al modo reale di esistenza, funge da motivazione causale per tutte le rinascite in essenza ciclica. Okay? Questo l'abbiamo visto. Ok. Il dubbio è una mente bivalente rispetto alle quattro nobili verità, alle azioni e ai loro effetti e così via. Esso funge da base per il non impegnarsi nella virtù. Il dubbio impedisce ogni attività virtuosa, in particolare ostruisce la visione della realtà, della verità. Quel dubbio rispetto a è di beneficio, non è di beneficio questa cosa, ce la faccio, non ce la faccio, è valido, non è valido, quindi quel tipo di dubbio ostacola. In generale abbiamo tre tipi di dubbi, no? Abbiamo un dubbio che non è in accordo, che non è fattualmente concordante, abbiamo il dubbio neutro e il dubbio che è fattualmente concordante. Okay? Quindi questo dubbio, il dubbio afflitto, è un dubbio bivalente, il dubbio neutro, no? Particolare. Ok, le visioni afflitte? La saggezza afflitta che apprende un sé concepito, io e mio, su una base di imputazione con i cinque aggregati che si disintegrano nel secondo istante di tempo per via di essere impermanenti e, non essendo un'unità, sono l'insieme di molti, è la visione della raccolta del transitorio. Grazie, fermiamoci qui. Allora, quando si tratta dell'identificare la radice della sofferenza, la radice dell'esistenza ciclica, viene puntata l'ignoranza. Okay? In certi testi viene puntata l'ignoranza. Per esempio, Nagarjuna, per quelli che conoscono, nei suoi trattati, quindi Nagarjuna era un grande pandita dell'India antica, no? Ha commentato i discorsi del Buddha in un modo molto esteso e lui nei suoi trattati identifica la radice dell'esistenza ciclica come essendo l'ignoranza. Invece uno dei suoi discepoli, Chandrakirti, quando ha commentato ulteriormente i trattati di Nagarjuna, ha identificato la visione dell'insieme del transitorio, okay? Questa saggezza afflitta che viene chiamata visione della raccolta del transitorio. Quindi molte persone ci hanno visto una contraddizione in queste cose e una confusione. Allora, entrambi sono validi, nel senso che l'ignoranza che cos'è in questo contesto? Quando l'ignoranza viene identificata come la radice dell'esistenza ciclica, ci riferiamo all'ignoranza che una reificazione dei cinque aggregati, dei fenomeni, di tutti i fenomeni in generale, in particolare dei cinque aggregati che compongono la persona. Quindi è il concepire, esattamente come abbiamo preso l'esempio del tavolo, concepire che il tavolo esiste indipendentemente, ritiene il suo modo di esistere, le sue caratteristiche indipendenti dalla mente. Quindi quando questo viene applicato al proprio corpo, alla propria mente, eccetera, questo viene chiamata l'ignoranza. Quindi è una reificazione, considerare come reale, come avendo un'esistenza autonoma, intrinseca, i costituenti della persona. Okay? La visione del transitorio, ha un oggetto di osservazione, okay? È una mente. Okay? Che osserva un fenomeno particolare. Allora, le varie scuole filosofiche per arrivare alla visione finale, perché la cosa è abbastanza sottile, hanno presentato in accordo alle loro capacità di comprensione varie posizioni su ciò che costituisce la visione dell'accordo del transitorio finale. Qui viene presentato un io mio sulla base di imputazione come cinque aggregati. Allora, nell'Amrim l'oggetto di osservazione della raccolta del transitorio sono i cinque aggregati. Cinque aggregati abbiamo il corpo, sono il corpo, quindi la discriminazione, sensazione, fattore di composizione, coscienza. Sono i cinque costituenti della persona. Questi abbiamo una mente che osserva uno o varie di questi costituenti, okay? Le considera come essendo stabiliti nell'entità di un io. Okay? Sono stabiliti nell'entità di un io. Nel senso, che cos'è l'io? L'io sono o uno degli aggregati o l'insieme degli aggregati. Okay? Quindi certe scuole andranno a presentare l'io come essendo l'insieme, altre invece come essendo la coscienza mentale. La coscienza mentale. Quindi abbiamo primo quindi questa reificazione dei costituenti, i costituenti, questi quindi la mente, il corpo, tutte queste cose vengono reificati, considerati come reale, e in dipendenza di questo abbiamo la visione del transitorio che osserva questo, queste basi di imputazione, okay? E le considera come non più reali, ma stabilite nell'entità di un io. Okay? Quindi vediamo che la visione del transitorio si basa comunque sull'ignoranza, nel senso che c'è precedentemente una reificazione dei cinque aggregati per far funzionare la visione del transitorio. Quindi sì, ecco perché entrambi l'ignoranza e la visione del transitorio possono essere presentate come la radice del samsara, perché sono è lo stesso continuum della stessa ignoranza. È sempre una reificazione, è sempre un considerare un'essenza intrinseca sia degli aggregati o della persona, quindi non c'è differenza. Quindi per recidere l'essenza ciclica è questa ignoranza che dobbiamo eliminare. È dovuta a quel tipo di ignoranza che la persona produce attività mentale come l'attaccamento, come l'avversione, come la belligeranza, che spingono all'azione. E queste azioni vengono sperimentate come risultati. Quindi la radice del samsara o la radice della sofferenza è questa ignoranza, la reificazione di un io, il considerare la persona o l'io come avendo un'esistenza vera, propria, reale, autonoma. Okay? Quindi dice qui. La visione dell'insieme del transitorio osserva gli aggregati di appropriazione fisica e mentale del proprio continuum e li concepisce come un io, un mio, reali. Ok? E questo in breve. Allora dice che è chiamata visione dell'insieme del transitorio perché gli aggregati mentali fisici che costituiscono la base della visione sono impermanenti, quindi transitorio, e sono un composto di elementi, quindi un insieme. Il nome stesso indica che non esiste una persona permanente e priva di parti. Okay? Allora, le varie scuole nel buddismo possiamo distinguere 1, 2, 3, 4, 4 scuole di filosofia. Okay? Queste quattro scuole di filosofia si distinguono nella loro posizione. Okay? Rispetto al modo di esistere delle cose della persona. Quindi non devono essere considerate come delle scuole che si oppongono una all'altra, ma invece come una ricerca, come la propria continuità, come la propria mente che diventa sempre più chiara nella comprensione della realtà. Okay? Quindi di solito quando si studia la filosofia, che si ricerca quindi di arrivare alla visione la più sottile, si incomincia per studiare le visioni inferiori, perché sono più accessibili, okay? E hanno dei livelli e si occupano di eliminare dei livelli di ignoranza più grossolani. Okay? Quindi abbiamo i Vaibhashika, i Sottantrika, i Cittamatra e i Madhyamika. I Madhyamika essendo la visione la più elevata, la via di mezzo. Allora, i Vaibhashika, lo scopo, quindi lo scopo, cioè il Buddha, cioè, si dice, no? Che è venuto per insegnare la vacuità, okay? Per insegnare, per liberare gli esseri dell'ignoranza, che è questo fraintendimento dell'io. E quindi tutte queste scuole, tutti gli insegnamenti sono fatti per un modo diretto o indiretto farci realizzare questo modo di esistenza della persona. E queste varie scuole hanno quindi degli oggetti di negazione diversi. Ah, mi spiego, il buddismo non sta dicendo che l'io o la persona non esiste, che i fenomeni non esistono, ok? In particolare l'io. C'è un io che esiste, ma c'è anche un io che non esiste. L'io che non esiste è l'oggetto concepito dall'ignoranza, ok? Quindi abbiamo la mente, che è associata a oscurazione, eccetera, ignoranza, in un modo spontaneo, non analitico, sovraimpone un modo di esistenza alla persona che non ha. Questo in un modo spontaneo, non analitico. Okay? Quindi questo è l'ignoranza. Quindi il lavoro è di identificare questo oggetto concepito dell'ignoranza è negarlo tramite il ragionamento. Okay? Quindi la saggezza che realizza la non esistenza dell'oggetto concepito dall'ignoranza, questa è la saggezza che realizza la vacuità. Vacuità di che cosa? Vacuità di esistenza intrinseca o vacuità di esistenza autonoma. Okay? Quindi il lavoro, c'è un grande lavoro di studio dove si incomincia a identificare i vari livelli, quindi grossolani dell'ignoranza, vengono confutati per passare a livelli più sottili, per arrivare alla visione finale. I primi livelli di ignoranza che abbiamo, che non sono innati, ma non sono, vengono chiamati intellettualmente acquisiti, sono la concezione di un sé permanente, indipendente e privo di parte. Allora, questo viene acquisito tramite la cultura, il paese, il modo di parlare, o la religione, o il seguire dei sistemi filosofici erronei. Per esempio, il concetto dell'anima. Il concetto dell'anima, in questo io, questo sé permanente, perché non cambia, privo di parte e che non dipende quindi da altre cose per la sua esistenza, una specie di essenza, no? Di essenza, questo non esiste per il buddismo, ok? L'anima non esiste, questa è una cosa neanche innata, nel senso che la persona, l'essere umano, in un modo innato non può sviluppare tale tipo di concettualizzazione, è qualcosa che è acquisito dovuto, come dicevo, alla cultura o all'adesione a sistemi filosofici, ok? Quindi, la nozione di un io permanente, indipendente, senza parte, è già eliminato dalla denominazione visione del transitorio. Comunque ci sarebbe da spiegare più in dettaglio per entrare nelle confutazioni di questo, ma questi sono insegnamenti che verranno più avanti. Quindi abbiamo già questa nozione di un io, e come per esempio abbiamo il corpo, okay? E all'interno del corpo c'è una specie di essenza che vive, no? Che è il controllore del corpo, è il controllore del corpo e della mente, ma è di una sostanza diversa, di una sostanza diversa. Cioè, la concezione, l'abbiamo per esempio, no? Quando diciamo il mio corpo, la mia mente, no? C'è questa nozione di un io che è diverso dal corpo e della mente. C'è, quindi quando è affascinante perché bisogna dopo cercare di osservare come questi concetti sorgono e a che sensazione sono associati. Quindi questi sono i primi livelli di ignoranza, okay? Dove c'è la nozione di un io permanente, indipendente, senza parte, che appare come il controllore dei aggregati fisico-psichici, quindi il costituente della persona, ma che ritiene una natura diversa da questi. Un po' come l'esempio che abbiamo nei testi, no? È per esempio il padrone e i servi. Servi? Dice così? C'è cioè uno è in controllo e gli altri sono oggetto di utilizzo. Quindi abbiamo questo io e l'io utilizza il corpo, utilizza la mente, è il padrone, mio corpo, mia mente. Quindi bisogna prima identificare questi livelli di ignoranza che, vi ripeto, non sono neanche innati, sono molto grossolane. Poi abbiamo un altro livello, un livello di ignoranza, è la concezione di un sé autosufficiente e sostanzialmente esistente. Ok? Allora, questo è già un po' più sottile, è un po' più sottile. Anche qui abbiamo, che cos'è un oggetto, un fenomeno autosufficiente e sostanzialmente esistente. È un fenomeno che non ha bisogno, per apparire alla propria mente, dell'apparenza precedente di un altro fenomeno. Per esempio, il tavolo, per apparire alla mia mente, non ha bisogno dell'apparenza di un altro fenomeno prima, no? Nel senso che percepisco il tavolo senza precedentemente percepire un altro fenomeno. L'io non ha un'esistenza autosufficiente e sostanzialmente esistente. Perché per percepire la persona o percepire l'io, uno prima deve percepire un altro fenomeno che non è l'io, il corpo. E sulla base della percezione dell'aggregato, della forma, okay? Che la nozione di io dopo sorge alla mente. Quindi sì, l'io, allora dopo ci sarebbe da pensare, l'io è il corpo, non è il corpo. Sì, uno pensa che l'io è il corpo, allora cioè, la situazione, cioè, è molto facile, nel senso che al momento della morte si finisce qui la storia, no? Il corpo è distrutto, l'io è distrutto. Però se pensiamo che l'io è il corpo è fatto da varie parti. Che parte è l'io? L'io è la testa, l'io è il braccio, l'io è cioè il cuore, l'io è il cervello. L'io è il cervello, va bene, che parte del cervello? La parte di destra, parte di sinistra, ok? O possiamo anche andare a che atomo di carbone? Dice che cos'è il carbono? È l'io. Abbiamo difficoltà a identificare l'io. Cioè, l'io è il cuore, allora è le ventricule droit, il ventricule di destra, di sinistra. È difficile, quindi uno potrebbe dire, no, ma lì, aspetta, l'io è l'insieme. È difficile dire che l'io è l'insieme. Perché l'io è il proprietario, è l'insieme, è ciò che è posseduto. Quindi è impossibile di avere sia il proprietario che il fenomeno posseduto come la stessa cosa, altrimenti fuoco e combustibile sarebbe completamente indifferenziabile. Cioè io sono il possessore, la penna è il fenomeno posseduto, sono due fenomeni distinti. Quindi se l'io è il corpo, il corpo ha delle parti, le parti sono proprietà del corpo, quindi proprietà dell'io. Quindi non funziona. Neanche dicendo che l'io è il corpo, anche lì l'io è il corpo, non funziona perché l'io è il proprietario del corpo. Quindi l'io non può essere della stessa entità che il fenomeno posseduto. L'io quindi non ha queste, non ritiene, non è un fenomeno autosufficiente e sostanzialmente esistente. Non ha questa esistenza autosufficiente. Perché? Perché per apparire alla mente ha bisogno dell'apparenza di un altro fenomeno in precedenza. Cioè un altro fenomeno deve sorgere alla mente e sulla base di questa apparenza l'io può apparire. Quindi l'io non appare del suo proprio potere, della sua propria forza. Quindi queste sono le cose, diventano un po' più sottili e complicate. A quel momento l'oggetto di negazione, anche qui l'io appare come essendo il proprietario degli aggregati. L'io appare essendo come il proprietario degli aggregati. Però non appare come essendo di un'entità diversa. Non appare come essendo di un'entità diversa. È un po' come l'esempio sarebbe i mercanti e il capo dei mercanti. Okay? Quindi gli aggregati e l'io hanno questa relazione di mercanti e capo dei mercanti. Sono tutti dei mercanti, però ce n'è uno che è il capo, uno che è un po' più importante, uno che ritiene una funzione più importante, ok? Questo è questo altro livello di ignoranza. Questo è innato. Questo livello di ignoranza è innato. Ce l'abbiamo con noi da tempi senza inizio. E poi il livello il più sottile, quindi questa eliminazione di questi due livelli di ignoranza non permettono l'ottenimento della liberazione, ok? C'è un altro livello di ignoranza che va eliminato, quello più sottile, quelle che funge di base agli altri è l'esistenza intrinseca, ok? Quindi l'esistenza intrinseca rispetto al sé si chiama quindi l'oggetto concepito della visione, si chiama l'oggetto, cioè, la visione del transitorio. La visione del transitorio concepisce un io intrinsecamente esistente, ok? Quindi bisogna annegare quel tipo di questa visione erronea per realizzare il modo di esistere in sottile della persona o della mente. Okay. Quindi l'essenza intrinseca è semplicemente il fatto che il fenomeno non abbia bisogno della mente per esistere. Okay. Quindi tutti i fenomeni esistono come etichettati dalla mente. Okay? Etichettati dalla mente. Invece l'apparenza che abbiamo è che i fenomeni hanno un'esistenza autonoma, del loro proprio lato. Abbiamo anche la nozione che se ricerchiamo il fenomeno nei suoi costituenti, lo possiamo trovare, possiamo rintracciare qualcosa che si incomincia a osservare, cioè a analizzare il microfono in un modo spontaneo, ciò che mi viene a mente è che certo, lo trovo il microfono, certo che lo trovo davanti. Invece quando questo è perché abbiamo questa è l'ignoranza, l'esistenza intrinseca, ok? Il fenomeno è rintracciabile nei suoi componenti, cioè si può trovare, c'è un'illustrazione del fenomeno nei suoi componenti. Invece, se incominciamo a cercare che cos'è il microfono, del lato del microfono, vedremo che siamo nell'incapacità di trovare ciò che corrisponde al microfono. Quindi sembra un po' strano così, però con analisi vedrete che la cosa. Quindi, come esiste il microfono? Allora, dal punto di vista della scuola la più elevata, okay, il microfono esiste come semplice denominazione concettuale su una base valida. Okay? Quindi abbiamo una base valida, questa base valida è in grado di ricevere quel tipo di concetto, di imputazione, perché è in grado di svolgere la funzione che corrisponde all'etichetta. Quindi il microfono, perché esiste, perché si chiama microfono e perché funziona, svolge tale funzione semplicemente perché c'è una comunità linguistica, che si è messa d'accordo per chiamare questo microfono e farlo funzionare in quel modo. Però del suo lato il fenomeno non ha la capacità di sostenere la sua, cioè, come ve lo metto? Del suo proprio lato il fenomeno non esiste, mettiamolo così, non esisto del suo proprio lato. Quindi questo lo vedremo in dettaglio quando faremo il terzo scopo. Questo è, ve l'introduco a questo livello, così piano piano, quando arriviamo all'essere di scopo superiore, delle cose già sono un po' posizionate. Poi abbiamo un altro tipo di visione erroneo, che è la saggezza afflitta, che è una visione che si afferra a un estremo. Sì, puoi andare La saggezza afflitta, che vede gli aggregati appresi come un io, come se fossero permanenti e immutabili, o come se si annullassero senza congiungersi da questa vita alla vita futura, è la visione che si afferra a un estremo. Vai, leggere tutte così le La facciamo. saggezza afflitta, che osserva qualunque delle tre, la visione della raccolta del transitorio, una visione che si afferra a un estremo, o una visione errata, e gli aggregati che sorgono in dipendenza da qualunque di esse e ritiene che sia suprema, è la visione che sostiene una scorretta visione come suprema. La saggezza afflitta che osserva una moralità che nella prospettiva della propria mente abbandona l'immoralità o una condotta ascetica come radersi i capelli e gli aggregati che sorgono in dipendenza da una di loro è la visione che sostiene moralità o condotte scorrette come supreme. La saggezza afflitta che sottovaluta l'esistenza della legge delle azioni e dei loro risultati e delle vite passate e future, dicendo che non esistono e che asserisce che il mondo è creato e distrutto da Brahma e così via, è la visione errata. Ok, quindi queste sono le altre 1, 2, 3, 4 visioni. 4. Manca una. 1, 2, 3, 4. No, 4. Le altre 4 visioni afflitte, ok? Quindi abbiamo visto, quindi sono 5 visioni afflitte. La prima è la visione del transitorio. La seconda è la visione che si afferra a un estremo, ok? La terza è la visione che sostiene una scorretta visione come suprema. Poi abbiamo la visione che sostiene una condotta scorretta o una moralità erronea come suprema. E poi abbiamo le visioni errate. Okay? Allora, la visione che si afferra a un estremo, che cos'è? È una mente, qui viene detto, no? in generale, possiamo metterla così, ha come oggetto di osservazione o gli aggregati o l'oggetto concepito dalla visione del transitorio, quindi l'io come concepito dalla visione del transitorio, ok? E ritiene che questo io concepito dalla visione del transitorio o è immutabile, immutabile, nel senso che esiste dopo questa vita, eccetera, eccetera, è immutabile, o al momento della morte viene annichilito. Quindi queste sono le due visioni estreme, l'estremo di permanenza, okay? E l'estremo di annichilimento. Quindi questa mente, questa visione ha come oggetto di osservazione l'io come concepito dalla visione del transitorio. E pensa che questo io è immutabile, quindi è eterno, l'io è eterno, o invece che al momento della morte è annichilito. Poi abbiamo la visione che sostiene una scorretta visione come suprema. Questo è, quindi questa visione osserva la visione del transitorio, che è la visione che si afferra a un'estrema, o la visione errate, che vedremo, e le considera come essendo delle visioni supreme, delle visioni da seguire, da portare avanti. Poi abbiamo l'altra saggezza afflitta, che è la visione che sostiene la moralità scorretta e la condotta scorretta come suprema. Quindi questo sono tipo di visione che servono di base a una fatica inutile, a sofferenze inutili. Per esempio in certe tradizioni, in particolare nelle varie tradizioni hindu, ce n'è una che consiste, per purificare il karma, a fare quattro fuochi nelle quattro direzioni e al momento il più caldo della giornata sedersi in mezzo. Cioè, con quattro fuochi nelle quattro direzioni si chiama quindi la pratica dei cinque fuochi. Ne abbiamo quattro più il sole. E quindi la persona subisce queste sofferenze in un modo completamente inutile, semplicemente perché uno pensa che questo gli permette di purificare il karma. Okay? Quindi questo, per esempio, è una moralità o condotta scorretta come suprema. O poi ci sono anche in India ci sono molte cose strane, delle persone anche che hanno sviluppato dei livelli di stabilizzazione meditativa e quindi hanno un certo tipo di chiarveggenza rispetto al passato, no? E vedono che è una cosa molto limitata perché non è ben sviluppata e vedono per esempio che nel passato erano un cane, una scimmia per esempio, eh? E allora pensano che dovuto essere stata una scimmia sono diventati gli esseri umani, o dovuto essere un cane sono diventati gli esseri umani, quindi in questa vita adottano la condotta del cane o della scimmia per continuare a ottenere la vita umana, nel futuro. Qui sono molte cose strane così. Quindi questa sarebbe una moralità scorretta come suprema. O per esempio quella anche del sacrificio, facendo dei sacrifici, questo è positivo, eccetera. Questa sarebbe una moralità, una condotta scorretta come suprema. E poi le visioni errate. Allora, le visioni errate sono visioni che negano l'esistenza di un esistente, o asseriscono l'esistenza di un non esistente. Per esempio, il credere, abbiamo le scuole hindu, ma anche il credere che c'è qui in India è Ishvara. Ishvara è il creatore degli esseri, o Brahma il creatore. Quindi questa è una visione errata che sostiene l'esistenza di un non esistente. E invece la visione errata che nega l'esistenza della legge di causa effetto o l'esistenza delle vite passate e future, questo è il negare l'esistenza di un esistente dal punto di vista della funzionalità, ma dal punto di vista dell'entità, per esempio, è il negare l'esistenza dei tre gioielli. o l'esistenza che il nirvana è possibile, che esiste una liberazione, o che esistono degli esseri che hanno realizzato direttamente la realtà, la vacuità. Quindi questo è il negare rispetto all'entità. Quindi abbiamo, allora, no, non abbiamo tutte, non, per esempio, non abbiamo tutti visioni errate, non abbiamo dei sistemi, non sosteniamo, almeno spero, delle moralità scorrette come supreme, ok? Allora, invece abbiamo, sicuramente abbiamo la visione del transitorio, questo non c'è dubbio perché altrimenti non saremmo qui, e abbiamo anche, è possibile che abbiamo tracce di visione che si afferra a un estremo, è possibile. Questo è da controllare. Ok, andiamo avanti. Quindi la radice di tutte le afflizioni è l'ignoranza. E anche se non è contraddittorio considerare i due fattori, l'ignoranza e la visione della raccolta del transitorio come uno, quando vengono sottilmente differenziati, vengono considerati come distinti. Per esempio, l'oscurità che rende non chiaro il modo di dimorare di una corda è paragonata all'ignoranza. E la coscienza che apprende la corda come se fosse un serpente, in dipendenza da quella, è paragonata alla visione della raccolta del transitorio. Perciò, poiché queste due vengono considerate come la radice di tutte le afflizioni, tutti i difetti vengono prodotti per il potere dell'attaccamento e dell'odio. Allora qui riprendo esattamente quello che abbiamo visto pochi minuti fa, che o l'ignoranza o la visione del transitorio possono essere presentate come la radice del samsara, ok? Non c'è contraddizione. Perché? Perché sono istante precedente e susseguente della stessa continuità di ignoranza, della stessa continuità di oscurazione. Perché l'ignoranza è esclusivamente rispetto ai fenomeni, okay? L'ignoranza è un'oscurazione rispetto al modo di esistere dei fenomeni che sono altro che la persona, e invece la raccolta del transitorio è un'oscurazione rispetto al modo di esistere esclusivo della persona, okay? Però come l'abbiamo visto, la generazione della visione del transitorio, quindi la generazione della concezione di un io intrinsecamente esistente, si basa sulla reificazione dei costituenti della persona. E quindi prima è necessario pensare che il corpo e la mente hanno un'esistenza intrinseca, e questo è l'ignoranza, e su questa base pensiamo che c'è un io che esiste in un modo intrinseco, e questa è la visione del transitorio. Quindi sono istante, è sempre la stessa concezione di esistenza intrinseca. Quando si chiama ignoranza è sui fenomeni altro che la persona, e quando si chiama visione del transitorio è esclusivo rispetto alla persona. Chiara la cosa? Mi sento un po' solo. Quindi, e qui abbiamo un'immagine. Quindi l'ignoranza è qualcosa che copre i fenomeni in generale, che copre, che oscura rispetto ai fenomeni in generale. Per esempio, c'è una corda, ok? E c'è il buio c'è il buio intorno al posto dove si trova questa corda, no? Quindi questa è l'ignoranza. E invece dovuta a questa oscurità generale, c'è una mente che fa errore e concepisce e sovraimpone invece su una corda un serpente, e questa è la visione del transitorio. Okay? Quindi l'ignoranza è una concezione erronea rispetto ai fenomeni in generale, che sono altro che la persona, e invece la visione del transitorio è un'ignoranza rispetto esclusivamente alla persona. Non soltanto, ma la persona nel proprio continuum, perché osserva i cinque aggregati nel proprio continuum. Quindi si incomincia a osservare la persona qui, non so come si chiama, Maurizio, ok? E concepisco Maurizio come avendo un'esistenza intrinseca, concepisco Questa è una concezione del sé della persona, ma non è una visione del transitorio, perché la visione del transitorio è esclusivo rispetto a miei al mio io. Quindi prima vediamo anche che ce n'è uno che sorge prima dell'altro, perché per concepire Maurizio come avendo un'esistenza intrinseca, primo devo vedere, vedo il suo corpo. La prima volta quando la persona entra si vede il suo corpo, il corpo, l'aggregato della forma viene reificato, quindi abbiamo una concezione del sé dei fenomeni a quel momento, concezione del sé dei fenomeni, e dopo si dice ciao, mi chiamo Maurizio, e a quel momento abbiamo una concezione del sé della persona Maurizio. Quindi abbiamo l'ignoranza e la visione del transitorio sono istante. Scusate, l'ignoranza e la concezione del sé della persona sono istante precedente e successivo della stessa continuità di ignoranza su delle basi diverse. Quindi entrambi possono essere presentati come radice del samsara. Andiamo avanti? Anche se si fa in modo di sopprimere un po' le afflizioni, ora, se non c'è il grado di sradicarle dalla radice, le afflizioni latenti, come un riflesso che appare in uno specchio, agiscono come supporto per l'incremento delle afflizioni. Proprio come quando un volto e uno specchio si incontrano, appare immediatamente un riflesso, similmente in dipendenza da diversi oggetti, come un nemico, un amico e così via, dal punto di vista di esseri osservati che producono afflizioni manifeste, le afflizioni si accrescono. Dipendendo dall'essere distanti, dagli amici spirituali virtuosi e dai compagni che praticano il Dharma, e dalle distrazioni, come la conversazione e il comportamento di cattivi compagni con afflizioni molto grandi, le afflizioni si accrescono. Per la forza delle spiegazioni degli amici spirituali non virtuosi e così via, che dicono che la liberazione viene ottenuta senza abbandonare le afflizioni si accrescono. Come coloro che sono veramente addestrati nella recitazione, anche se la loro mente è distratta, procedono perfettamente senza ostacoli, così che le afflizioni, per via del potere dell'associazione, della familiarità del passato, si accrescono. Grazie alle varie supervalutazioni causate dall'attaccamento e dall'odio, come pensare, quella persona mi ha beneficato e quella persona mi ha danneggiato, e dall'attenzione mentale impropria, come il pensare, anche se quell'essere umano ha commesso grandi negatività, ora vive con soddisfazione, perciò la legge delle azioni e i loro risultati non è vera, le afflizioni si accrescono. Perciò, dopo aver riconosciuto queste sei cause, pratica con incessante perseveranza, come se ti trovassi in attesa di un nemico, su uno stretto sentiero. Ok, grazie. Quindi vengono presentate a quel momento le sei cause per il sorgere delle afflizioni. Se vogliamo una presentazione molto breve, basterebbe a dire, per far sorgere un'afflizione, che abbiamo bisogno di un oggetto di osservazione, abbiamo bisogno di la latenza di un'afflizione, okay? Quindi un istante precedente, cioè una latenza, e dell'attenzione mentale inappropriata. Abbiamo queste tre, l'afflizione sorge. Però qui abbiamo una presentazione un po' più dettagliata, che è estratta dal testo di Asanga, okay? Il testo di Asanga. Quindi abbiamo bisogno di una base, di un oggetto, c'è un contesto sociale, c'è un dipende anche di spiegazione, c'è una familiarità e c'è un'attenzione. Abbiamo queste sei. Allora la base cosa sono? Sono le latenze di afflizione precedente, ok? Semplicemente dovuto al fatto che siamo degli esseri senzienti, abbiamo latenze di afflizione che aspettano solo le condizioni favorevoli per manifestarsi, ok? Quindi abbiamo latenze di odio, di attaccamento, di orgoglio, di belligeranza, eccetera. Quindi basta solo che il momento viene e si manifestano. Quindi la condizione per avere per manifestare un'afflizione è di avere i semi dell'afflizione, che okay? Questa è la base. Quindi, sì. Ma quelle sono quelle formate da karma, da azioni precedenti? L'afflizione, allora, ogni volta che uno manifesta un'afflizione, che un'afflizione diventa manifesta, come l'attaccamento, eccetera, questa afflizione lascia un'impronte, per un altro momento di afflizione e di livello simile. Per esempio, quando sorge dell'avversione o della collera, o dell'impazienza, viene depositata un'impronte per un altro momento di impazienza, di collera o di avversione. Quello che nella sabbia viene sorcato, come dire, cioè la mente paragonata a una distesa di sabbia e un'impronta precedente ha lasciato un solco sulla nostra mente e quando sorge una causa condizione ritorna su. Sì, o lo puoi vedere o come un campo nel quale tu vai a seminare delle cose, cosa vai a seminare? In questo contesto vai a seminare l'afflizione. Quindi quando dopo c'è l'oggetto, c'è l'attenzione mentale appropriata. Quindi abbiamo queste propensioni, si dice così, propensione? Latenze, propensione per afflizione. Okay? Le abbiamo. Abbiamo i semi, quindi sorgono. La seconda cosa è l'oggetto, okay? Quindi l'oggetto, si riferisce all'oggetto di osservazione, quindi è un oggetto adeguato a far sorgere un'afflizione particolare. Allora, quando gli oggetti sono sono percepiti, discriminati come sgradevole, inattraente, eccetera, allora l'avversione sorge. Okay? Quando abbiamo gli oggetti di attaccamento, quindi abbiamo oggetti di avversione, sappiamo che cos'è questa cosa, non c'è bisogno di spiegare molto, no? Quindi è un oggetto, cioè che cos'è l'oggetto di osservazione? È l'apparenza di un oggetto conducibile? Conducibile? No, conducibile. Conducibile? No, questo è francese. È un oggetto, esiste? Ok, allora va bene. L'apparenza di un oggetto conducivo al sorgere di un'afflizione. Poi abbiamo il contesto sociale. Il contesto sociale, allora, possono essere varie cose. Possono essere, sì, in generale viene presentato come l'influenza di persone, no, di persone non positive. No, non necessariamente, sì, ma non sono necessariamente negativi. Sì, nel senso che quello che facciamo qui è un contesto molto particolare, nel senso che dovuto a comprensione, che è molto difficile da far sorgere, abbiamo capito che la radice della sofferenza è la mente, è la sua attività, e in particolare sono le afflizioni, quindi l'attaccamento, l'avversione, eccetera, eccetera. Quindi comprendiamo che dobbiamo eliminare queste cose. Ma chi vuole eliminare l'attaccamento? Chi vuole eliminare l'avversione? Queste cose nel mondo di tutti i giorni non sono percepite come oggetto di abbandono. Sì, vai da qualcuno e dici guarda, bisogna eliminare l'attaccamento. Cioè, senza comprensione così, la persona sente che deve smettere di vivere, perché l'attaccamento è la ragione di vita. È la ragione di vita, nel senso che tutta la nostra felicità deriva. Quello che noi chiamiamo felicità deriva esclusivamente dell'utilizzo degli oggetti di attaccamento e della manifestazione dell'attaccamento. Quindi va a dire questo a una persona che, guarda, l'attaccamento è un oggetto di abbandono. Quindi non, ecco perché dicevo, non mi piaceva la parola negativa, perché è semplicemente l'associarsi in un modo troppo stretto o troppo ricorrente con persone che non hanno nessun desiderio di ridurre le afflizioni della propria mente, che non hanno nessun desiderio per lottare contro l'attaccamento, che non hanno il desiderio di lottare contro l'avversione. Allora, semplicemente al loro contatto, visto che comunque c'è un fenomeno di imitazione, imitiamo, semplicemente è una cosa normale, andiamo. Dovuto all'associazione il comportamento cambia. Quindi anche se, quindi per noi che siamo principianti, perché si tratta di questo, siamo dei neonati nel Dharma, dobbiamo fare attento a questa cosa, no? Alle persone con la quale andiamo a associarsi, passiamo il tempo, eccetera, perché naturalmente, anche se non lo vogliamo, la loro influenza ci tocca. Okay? Quindi in generale viene detto, no, che allora quando uno è saldo nella sua pratica, che ha gli antidoti, che sa come utilizzare gli antidoti, che ha generati questi, che ha sviluppato questi antidoti, allora non c'è problema. Anzi, questa persona dovrebbe andare a associarsi ad altri per aiutarli. Okay? Però noi, cioè, quindi dobbiamo essere attenti. Per esempio, no? Anche lì, se guardiamo anche il livello della condotta etica, no? Quindi le di eccezione non virtuose, no? Soprattutto quella della parola, no? Le parole che dividono, le critiche, bla bla bla, parlare a vanvera, il mentire. C'è una persona che desidera attualizzare un comportamento, cioè manifestare un comportamento etico, si associa a delle persone che hanno o lo stesso livello o un livello inferiore, questa persona degenera, è assicurato perché è portato dal gruppo, no? Basta vederci, anche se siamo ben motivati, no? Ci ritroviamo insieme intorno, cioè, a un pranzo o qualcosa e guardate le conversazioni, no? Sono cioè parlare a vanvera, oggetto di attaccamento, di avversione di qua e di là. Questo è naturalmente. Perché? Perché abbiamo questa familiarità. Invece, quindi, si dovrebbe cercare di se invece ci associamo, sì, a delle persone che hanno un'etica migliore della nostra, no? Allora, naturalmente, senza sforzo, siamo portati, ok? Anche l'entusiasmo si trasmette senza sforzo, ok? Sono delle cose, quindi dobbiamo fare attenzione a queste cose. Ecco perché il mio maestro diceva sempre, no? I cattivi amici non li riconosci. I cattivi amici, nel senso che non arrivano con delle corna o delle cose del genere. I cattivi amici arrivano col sorriso, con le bottiglie, cioè, questi sono i cattivi amici, perché ti fanno degenerare, ti fanno perdere il tempo. E questo viene fatto anche desiderando, no? Passare buon momenti con le persone, no? Non è che abbiamo desiderio di danneggiarle, però dovuto al fatto che naturalmente la nostra mente scende verso il basso, che non abbiamo etica, ecco, questo accade. Quindi è come si dice, no? Che per illustrare questo sistema dell'associazione, si dice che quando si prende un bastone d'incenso e che si mette tramite la legna dell'incenso al sandalo, e che si mette tramite la legna ordinaria, ok? Allora anche la legna ordinaria prende il profumo del sandalo, quindi la persona, cioè, ecco perché associarsi a quelli che hanno più di qualità di noi, o che hanno la migliore etica, o che almeno cercano di fare lo stesso lavoro, e questo è il punto, che cercano di fare lo stesso lavoro, è molto di aiuto per noi, molto di aiuto. Quindi questo è quello che viene chiamato, sì, contesto sociale. Qui sarebbe, qui. Sì. Ecco, qui viene menzionato il fatto che siamo distanti degli amici spirituali virtuosi. Quindi noi non siamo in una situazione, non abbiamo così tante virtù, tanti meriti per essere con il nostro maestro spirituale tutti i giorni. Non è il caso. Perché non abbiamo questa fortuna, non abbiamo questo karma, no? E quindi quello che è importante per noi è quindi invece associarsi a delle persone che sono i nostri amici, ma nel percorso, no? Perché c'è un'influenza a vicenda. Ok, e poi abbiamo la spiegazione, quindi questo significa che le afflizioni vengono anche sviluppate dovuto al seguire degli insegnamenti insegnamenti erronei. Per esempio, persone che dicono: ah, ma c'è solo una vita, quindi bisogna a sfruttarla al massimo, le azioni non hanno effetto, uno può fare quello che vuole, non c'è conseguenza, quel tipo di cose. Ma anche le nostre brutte abitudini possono entrare in questo contesto, no? Le nostre brutte abitudini. Le perché per esempio siamo attaccati a certi comportamenti, a certe distrazioni che non sono di aiuto per il pacificare la mente. Poi abbiamo l'abitudine. L'abitudine significa allora l'abitudine con le afflizioni. Nel senso che più lasciamo la porta aperta a dell'afflizione, più si sviluppa, nel senso più diventano ricorrente, okay? E la loro forza aumenta. Quindi quando si manifestano sempre più potente. L'attaccamento non si chiude il rubinetto. L'attaccamento diventa sempre più potente, quindi l'insoddisfazione aumenta e quindi sì, l'insoddisfazione aumenta, la ricerca della soddisfazione aumenta, quindi è una spirale. E poi il sesto l'abbiamo visto insieme, quindi il quinto come viene messo? Il sesto è l'attenzione mentale inappropriata, ok? Quindi l'attenzione mentale inappropriata. È quando un oggetto viene discriminato come piacevole e spiacevole e che uno dimora negli attributi piacevole o spiacevole dell'oggetto. Questa è la sua funzione, è di far sorgere l'afflizione. Ecco perché quando la nostra mente è sotto l'influenza dell'insoddisfazione, quando è sotto l'influenza dell'attaccamento, quando è sotto l'influenza dell'avversione, non concettualizzare. Perché diventa automaticamente attenzione mentale inappropriata. Avrà come risultato di aumentare l'afflizione che già manifesta. Quindi pensate a qualcos'altro. Visto che è un'attitudine, visto che è una mente concettuale, fissate la vostra attenzione sul naso, nel senso sull'aria che passano. Questo si fa anche all'ufficio, è seduto su una sedia o... sì. Sì, automaticamente questo blocca l'attività concettuale. L'attività concettuale viene automaticamente sospesa. Quindi quando vedete che la mente respiro, respiro, questo blocca l'attività concettuale e vi riporta la mente in un stato neutro. Perché non analizzare quando non dobbiamo analizzare quando siamo sotto l'influenza di afflizione, perché aumentano automaticamente. E il pericolo è che dopo ci sono le azioni, perché a un certo punto l'afflizione diventa così potente, bam, che l'azione si impone a noi, si impone a noi. Quindi, come la settimana scorsa abbiamo detto, non dobbiamo cercare prima di vedere qual è l'afflizione principale nel nostro continuum, incominciare a lavorarci sopra, quindi abbiamo detto per l'avversione e il meditare, quindi bisogna sviluppare gli antidoti. Allora, gli antidoti non vanno sviluppati quando siete sull'influenza, quando siamo sull'influenza dell'afflizione, perché è impossibile. Quindi l'antidoto va sviluppato quando tutto va bene. Nel senso che abbiamo riconosciuto che abbiamo tale problema. Allora, tutti i giorni, regolarmente, quando tutto va bene, cerchiamo di meditare su questa cosa, di far crescere quell'antidoto, in modo che quando ne ha bisogno, abbiamo bisogno, lo possiamo far sorgere, lo possiamo utilizzare. Sì, aspettiamo di essere sopraffatto dall'attaccamento e dell'avversione per incominciare a meditare su... Le impurità del corpo o i svantaggi dell'attaccamento o di meditare sull'amore quando siamo divorati dall'avversione, non funziona, ma non, cioè, è impossibile perché l'antidoto è troppo debole, c'è troppo poca familiarità con quel tipo di attitudine, di pensieri in paragone alla potenza di un'afflizione. L'afflizione è una cosa devastante, cioè non sottovalutate mai un'afflizione, è una cosa incredibile, quando se la lasciate crescere a un certo punto diventa molto difficile dopo di lottare, cioè di veramente, cioè, sì, dopo cioè, siete portati avanti per mesi, anni, finché l'avversione, cioè l'afflizione rispetto a un oggetto particolare incomincia a diminuire. Quindi è meglio non lasciarli crescere, perché dopo si perde il controllo. E poi è anche pericoloso nel senso che, soprattutto con l'aversione, no? L'aversione cioè, focalizza quindi sulle persone e mette le persone nelle scatole. Cioè, questa persona è così, proprio si mette nella scatola, si archivia la scatola. È molto, quando avete fatto entrare una persona in una scatola, è molto difficile di farla uscire. Molto difficile. La persona è categorizzata in quel modo e questa è una proiezione completamente nostra. Questo dipende da cose e condizioni, da circostanze. La persona viene categorizzata in quel modo e dopo, ogni volta che la vedete, oh, c'è quell'immagine che sorge, quella categorizzazione che sorge, no? Lui è così, così, cos'ha, lei è così, così, cos'ha. È molto difficile dopo di far, so, so, di far, sì, di far uscire le persone di quella scatola, quindi è meglio non farle entrare. Quello che vogliamo è proteggerla propriamente, no? Quindi proteggerla di che cosa? Da questa attitudine. Di questo che stiamo cercando di proteggere la mente. Difetti dell'afflizione, ne siamo dentro. Quali sono i difetti dell'afflizione? Sono innumerevoli. Okay? In breve, quando un'afflizione si manifesta è sofferenza, quindi cioè la sofferenza è manifesta subito, subito, anche se riusciamo nell'arco di una giornata, no? A essere felice 15 minuti e bisogna lavorare per essere felice 15 minuti in una giornata. Questi 15 minuti si finiscono perché? Perché c'è un'afflizione che viene a interrompere la continuità di questo benessere. La mente viene disturbata, cioè il benessere viene interrotto perché c'è il disturbo. Il disturbo da che cosa è creato? Dall'afflizione. Quindi prima cosa ci fanno soffrire le afflizioni, fisicamente e mentalmente, cioè mentalmente prima e dopo fisicamente, perché quando la mente sta male, il corpo anche sta male. Secondo, ci mentono, cioè, pensate sempre, no? L'afflizione è una distorsione della realtà, l'attaccamento aumenta le qualità. Aumenta, le inventa, nasconde difetti, i difetti vengono anche percepiti come qualità. E invece l'avversione è l'opposto, l'avversione diminuisce, elimina le qualità, gli aspetti piacevoli dell'oggetto, non vengono più percepiti e le qualità ci appaiono anche come difetti. Questa è la mente di avversione. Quindi ci mentono, le afflizioni ci mentono. Cosa fanno le afflizioni? Quindi ci danneggiano noi, ma gli altri anche. Perché quando abbiamo un'afflizione manifesta, siamo un pericolo per gli altri, per noi, ma anche per gli altri. Perché motivati dall'attaccamento, visto che abbiamo questa nozione di un io, no? Quindi quando c'è la nozione di un io, automaticamente sviluppiamo attaccamento per tutto ciò che è tutto ciò che è collegato all'io, che è oggetto di utilizzo dell'io, ok? E quindi avversione per tutto ciò che è altro, no? O che metti in pericolo. Quindi noi navighiamo in questa bipolarità, no? Si possa esprimere in quel modo. Abbiamo attaccamento per tutto ciò che favorisce l'io, e avversione per tutto ciò che è altro. Altro o che metti in pericolo i propri scopi, eccetera, tutto quello che vogliamo ottenere o vogliamo fare. Quindi motivati di attaccamento siamo anche una fonte di danno per gli altri perché motivati da, cioè, ubriacati, si dice così, ubriacati dall'attaccamento andiamo anche dividere le coppie, le famiglie, eccetera, eccetera, perché siamo sotto l'influenza dell'attaccamento. Pensiamo, l'unica cosa alla quale pensiamo è la soddisfazione, dell'attaccamento, della mente di attaccamento. Ok? E poi, e quando invece c'è l'avversione, allora c'è il danno, cioè, a 360 gradi, verbale, fisico, mentale, cioè l'avversione è terribile. Quindi con le afflizioni diventiamo quindi una fonte di danno per noi e per gli altri. Cosa fa? Ma le afflizioni distruggono la nostra disciplina etica, la nostra moralità. Automaticamente Shodan Rinpoche un giorno ha detto, chi tollera le afflizioni nella sua mente non ha etica. Sono stato colpito da questa cosa. Rendete conto? Cioè, chi tollera le afflizioni nel suo continuo mentale non ha etica. Quindi questo significa che l'etica alla fine è l'eliminazione delle afflizioni nella propria mente. Non è più semplicemente avere un buon comportamento fisico e verbale, ma il comportamento mentale che è completamente bianco, se mi posso esprimere in quel modo. Quindi le afflizioni distruggono la nostra moralità, quindi primo partendo dalla mente e poi automaticamente, no? Ci sono le azioni verbali e fisiche motivate da queste afflizioni. Dovuto alle afflizioni, le nostre qualità interne non si sviluppano. Se abbiamo delle qualità, non si sviluppano. Quelle che non abbiamo generate non le possiamo generare e quello che abbiamo generati possono anche diminuire, certo che diminuiscono. Se siamo riusciti a guadagnare un po' dovuto a sforzi, a contemplazione, eccetera, a un po' di, come si chiama, no? Di attitudine altruistica o di benevolenza per gli altri, sì, l'avversione arriva qua dentro, è finito. Il perché non possiamo generare, anche se cerchiamo, non abbiamo congenerato l'equanimità o l'amore o la compassione, semplicemente perché abbiamo l'avversione dell'attaccamento. Dovuto al fatto di avere avversione nel continuo mentale, questo ci impedisce lo sviluppo di qualità come la grande compassione, la mente di bodhicitta, l'equanimità, l'amore, eccetera, semplicemente perché c'è avversione. Quindi per poter sviluppare queste qualità non significa che la dobbiamo eliminare completamente, perché non sarebbe possibile, ma dobbiamo almeno pacificare i livelli grossolani di queste afflizioni. Senza pacificare i livelli grossolani dell'afflizione, come l'attaccamento e l'avversione, è impossibile che altre cose crescano. Quindi si dimoriamo, si tolleriamo questa ricorrenza o queste manifestazioni, queste onde molto, molto grossolane dell'afflizione. È impossibile che la mente si migliora. Per migliorare la mente dobbiamo incominciare a mettere anche come quando si gioca agli strumenti, si mette una cosa davanti così fanno meno rumore. No? Come si chiama? Comunque, vabbè. E bisogna cercare di attenuare la sordina. Mettere una sordina sulle afflizioni. E poi piano piano, e questo si fa utilizzando quindi i vari antidoti, quindi per la mente che concettualizza troppo bisogna meditare sul respiro, per la mente di avversione sull'amore e la compassione, per la mente di attaccamento bisogna riflettere molto sui svantaggi dell'attaccamento, bisogna riflettere anche sui difetti dell'oggetto di attaccamento, okay? Su queste cose. E questo piano piano fa in modo che con l'attenzione, dopo l'introspezione, che le afflizioni non sorgono più, o quando cioè non sorgono, sorgono di meno, e quando sorgono possono o velocemente essere estinte, come quando il fuoco incomincia a prendere e saltiamo con i piedi sopra, pop, pop, pop, pop, o si sorge, è mantenuto, è contenuto. Però vi dico, cioè, attento. Cosa creano le afflizioni? Creano il tormento mentale, l'ansietà, tutte queste cose sono derivate dalle afflizioni. E alla fine ci fanno rinascere nei stati sfortunati. Stati sfortunati. Tutto quello, allora, i stati sfortunati sicuramente, ma tutto ciò che è spiacevole nella nostra vita, tutto ciò che è spiacevole, dall'esperienza diretta con qualcosa di spiacevole, o anche con semplicemente il non ottenere quello che desideriamo, è dovuta a che cosa? Dovuta all'afflizione. Perché abbiamo questa esperienza di sofferenza? Perché abbiamo avuto dei comportamenti non virtuosi nel passato motivati da afflizione. Il comportamento non virtuoso è motivato, qual è il motore, è l'afflizione. Quindi è dovuta all'afflizione, tutte le esperienze spiacevole che abbiamo le dobbiamo all'afflizione. Tutte le sofferenze fisiche e mentali che abbiamo le dobbiamo all'afflizione. Tutte le circostanze di vita spiacevole, i problemi, le dobbiamo alle afflizioni passate, alle afflizioni presente anche, ma soprattutto alle azioni che abbiamo compiuto, che maturano in questa vita sotto forma di queste varie esperienze spiacevole, ma queste azioni sono state compiute nel passato e sono state motivate dalle afflizioni. E le afflizioni sorgono dovute a che cosa? Dovute all'ignoranza. Quindi non c'è nessuno da to put the blame on, come si dice? To put the blame? Non c'è nessun colpevole, nel senso che se abbiamo dei Biasimare. problemi da biasimare, ok? Quindi non c'è un colpevole da biasimare sul quale dobbiamo gettare la responsabilità, no? Della sofferenza che abbiamo, è colpa tua, è colpa di questo, no? Cioè, colpa dell'afflizione. Colpa dell'afflizione. L'afflizione che ci fanno agire in certo modo, in modo non virtuoso in generale, è dovuta a questo, si sperimenta sofferenza nel futuro, in varie condizioni. Quindi se vogliamo la felicità nel presente, dobbiamo pacificare la mente, e se vogliamo fe la felicità nel futuro, dobbiamo anche pacificare la mente. Ok, io mi fermerei qui. Ci sono delle domande? Quando leggiamo il Sutra del Cuore della Saggezza all'inizio, si parla di avere di te ciò che percepisce anche gli aggregati di una loro esistenza intrinseca. Esatto. Poi, dopo un po', però, per me sembra un po' strano, dice la vacuità non è altro che forma, la forma non è nient'altro che vacuità. Sembra porre Le quattro un'equivalenza profondità, logica. le quattro profondità. Quindi questo, per spiegare questa cosa, bisogna entrare in discussione per altre 2 ore, ok? Quindi non ce la faccio. Forse nel futuro potremo fare anche la sera a studiare il Sutra del Cuore, quando avremo finito questa cosa. Potremo fare il Sutra del Cuore, potete scegliere, possiamo scegliere insieme, vedere che possiamo studiare. Possiamo fare il Sutra del Cuore, molto interessante. E vedremo che sono quattro profondità, quattro modi di meditare sono associati, uno è associato alla comprensione della natura ultima e l'altro è la comprensione della natura convenzionale. Quindi c'è il comprendere la natura ultima e comprendere la mancanza senza intrinseca. Okay? E soltanto quando uno ha effettivamente compreso come il fenomeno non esiste, può comprendere come esiste effettivamente. Quindi questo è il sorgere dipendente sottile, questo è l'aspetto convenzionale sottile del fenomeno, quindi si riferisce a questo. Si riferisce anche al fatto che la vacuità, allora la forma è vuota, okay? Questo significa che l'entità della forma è vacuità d'esistenza intrinseca. La natura La natura della forma è vacuità d'esistenza intrinseca. Ma la vacuità è anche forma, nel senso che la vacuità non è trovata separatamente dalla forma. Quindi è come la forma e vacuità, vacuità e forma sono come le due facce della stessa moneta. Quindi nel futuro eventualmente se siete interessati si potrebbe fare sta cosa o qualcos'altro. Però prima abbiamo ancora del terreno. Ok, quindi ci siamo? Ok, ci siamo. Allora, come di solito, dedica importante, quindi cerchiamo di a tutte queste virtù che abbiamo accumulate, dedicarla affinché molto velocemente ci possiamo ottenere allo stato di Buddha, essere di beneficio a tutti gli esseri senzienti, possiamo molto velocemente pacificare la nostra mente, generare tutte le qualità del sentiero, percorrere i vari sentieri, quindi manifestare questa forma, questo culmine della forma di mente che è lo stato di Buddha e quindi essere di beneficio a tutti gli esseri senzienti. Dedichiamo anche affinché quindi tutti i maestri che insegnano i veri sentieri verso le vere cessazioni abbiano una lunga vita e che i loro desideri si esauriscono. Dedichiamo anche l'insegnamento del Buddha dimora per molto tempo senza degenerare in questa terra per aumentare la felicità degli esseri e diminuire la loro sofferenza. Jangyo Semjo Rinpoche Makye Panam Kenkyu Je Yaba Nyamba Nyamba Yam Gane Gondu Belwa Yo Gare Rawe Korwe Chinkamdi Demdam Dewa Maru Juwe Chenre Ziwa Yadzo Ye Shabe Zite Padu Denju Dāso jīnyē sāmbē gyāwādi dāmbdāṁ drāvā kūnā gāmbēdā dhyāmbā cīcū lōsāṁ drāmbāyī tēmbē nyāmbō rindu sēcē yō. Je suis un néophyte, vraiment, du bouddhisme. J'ai quelques problèmes avec la terminologie. Oui, c'est ça. Alors, ici, par exemple.